Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Oggi vi promettiamo una puntata veramente fuori dal comune, con una storia che ha tutte le caratteristiche di un'avventura o di una favola. Favola a lieto fine per una giovane donna che a soli 19 anni ha deciso di intraprendere un viaggio straordinario durato 16 anni. Ha lasciato le splendide montagne di Cortina nella Bellunese e ha trovato l'America, quella vera, quella di Hollywood. I sogni per lei si sono avverati, sia quelli di vita sia quelli professionali, ma l'Italia, come spesso avviene per chi ha scommesso su una formazione all'estero, non le ha offerto alcuna possibilità quando ha provato a rientrare. Oggi conosceremo una nuova professione, quella del lobbista. A Bruxelles, dove secondo dati di Opengate Italia ben 1793 lobbisti sui 4352 accreditati al Parlamento europeo sono italiani, questa professione è ben regolamentata. In Italia forse è persino più radicata, ma si regge su relazioni informali, vive nel dietro le quinte. È tutto fuorché alla luce del sole. A Bruxelles ho fatto domanda di lavoro rispondendo a un annuncio, per cui ci sono queste possibilità, e sono stata presa perché hanno saputo valorizzare il mio background accademico internazionale, sicuramente le esperienze che ho fatto e poi anche le conoscenze che ho acquisito, per cui viene messo veramente in evidenza quello che sei e quello che sai. Sandra Alverà, 35 anni, è Manager Government Affairs per la multinazionale Panasonic a Bruxelles. Della sua storia parleremo tra pochi minuti. Ora spazio al notiziario. Più di 60.000 giovani italiani, lavoratori o in cerca di impiego, lasciano ogni anno il paese per cercare migliori occasioni di lavoro all'estero. Molti di loro sono in cerca di prima occupazione. Lo rivela Confimpresa Italia, l'associazione delle microimprese e dell'artigianato. Il target preso in considerazione riguarda i ragazzi tra i 20 e i 32 anni. Molti di loro sono qualificati e ad alta scolarizzazione, anche e soprattutto universitaria, precisa lo studio. L'organizzazione propone l'istituzione di un osservatorio permanente sulla mobilità professionale e del lavoro per censire e monitorare questo fenomeno. Prosegue anche oggi con la terza puntata la nostra inchiesta sui numeri della nuova emigrazione professionale qualificata. Oggi a Giovani Talenti parla Lorenzo Beltrame, ricercatore e autore del paper Realtà e retorica del brain drain in Italia. Conosco una stima complessiva che parla di circa 410.000 laureati italiani all'estero, persone che hanno conseguito la laurea in Italia e non all'estero. Secondo altre stime che circolano, si parlava di circa 12.000 laureati all'anno che lasciano l'Italia, però secondo una ricerca un po' più sistematica, ahimè un po' datata, la cifra nel 99 era intorno alle 4.000 unità di persone che si cancellavano dall'anagrafe, però attenzione, a cui andrebbero sommati coloro che non si cancellano all'anagrafe. A livello di fuoriuscita di personale qualificato non siamo molto diversi dagli altri paesi OCSE, ma a livello di entrata o di rientro invece il confronto ci annichilisce in qualche modo, no? Esattamente, perché il grosso problema che ha l'Italia è che il flusso di immigrazione è scarsamente qualificato, nel senso che la percentuale di immigrati altamente qualificati è notevolmente inferiore alla media degli altri paesi OCSE. Detto in parole povere, esportiamo cervelli, importiamo manodopera. Per ogni cervello che entra, ne escono tre. Oggi parliamo anche di circolazione dei talenti nel mondo. La Cina è il paese che esporta più talenti davanti a Stati Uniti e India, ma è anche il paese che più di tutti potrebbe rubare manodopera. E quanto emerge dallo studio Talenti globali per città globali dell'economista Saskia Sassen, l'Italia figura al secondo posto nel mondo per bisogno di immigrati ed è ottava nella graduatoria dei paesi preferiti dal personale straniero. Figuriamo però al settimo posto tra i paesi i cui datori di lavoro risultano più preoccupati per la perdita di talenti. E l'Università Bocconi scalza il Politecnico di Milano e diventa la prima università italiana, è quanto emerge dalla classifica degli Atenei presentata da Vision, il network di laureati italiani con esperienza di lavoro all'estero. Prosegue fino al 2 gennaio a Grenoble SI Sindrome Italiana, la mostra che ospita i lavori di 40 artisti italiani, tutti ventenni o trentenni, artisti che vivono e lavorano tra Londra, Parigi, Berlino e New York. A Giovani Talenti Andrea Sala, 33 anni, autore dell'opera Lato B. Io vivo in Canada da anni, ci si sposta di continuo perché ci sono realtà interessanti, mostre interessanti che continuano a svilupparsi sui territori, non solo quindi sul territorio italiano. Devo dire che l'essere andato in un territorio come il Canada per me è stata un'esperienza straordinaria dal punto di vista anche delle influenze che un territorio come il Canada dà al mio lavoro, al mio modo di lavorare. E si è aperta mercoledì la seconda edizione di Italians, la mostra di giovani artisti italiani ospitata all'ambasciata di Berlino. Espongono 9 artisti tra i 20 e i 40 anni. Ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: un Economic Affairs Officer al WTO di Ginevra svilupperà progetti nel settore del commercio e dell'ambiente, richiesto un PhD in economia, scadenza per i CV 29 ottobre, info su wto.org. Un consulente per i servizi di ingegneria di sistema e network alla Black Sea Trade and Development Bank di Salonicco in Grecia, scadenza per i CV 31 ottobre, info su bstdb.org. E infine un ricercatore senior allo Helmholtz Center for Environmental Research di Lipsia in Germania, richiesto un PhD, scadenza per il CV 31 ottobre, info su ufz.de. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci porta per la prima volta a Bruxelles, capitale dell'Unione Europea, per conoscere qualcuno che nel cuore dell'Unione vive e lavora. Nome: Sandra. Cognome: Alverà. Età: 35. Città di origine: Cortina d'Ampezzo. Studi: Master sulle politiche dell'Unione Europea. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 1994. Per andare dove? Los Angeles, California. Perché? Per vedere cosa c'era oltre le Dolomiti. Quale lavoro svolge attualmente? Lobbista per multinazionale giapponese del settore dell'elettronica. Dove? A Bruxelles. Tornerai? Non lo so. L'inno alla gioia, inno europeo, per introdurre la storia di Sandra Alverà, 35enne lobbista italiana al lavoro nel cuore dell'Unione. Ho tentato di rientrare in Italia nel 2002, destinazione Roma, pura follia. Offerte di lavoro, qualche impiego non retribuito, un lavoro come centralinista in uno studio legale e un contratto per 300 euro mensili definiti come rimborso spese. Terrificante. Dopo anni all'estero volevo tornare a vivere nel mio paese. Forte di una laurea, un master, un ottimo inglese, un ottimo spagnolo, pensavo che avrei sfondato. Invece sono loro che hanno sfondato me. E che botta! Così. Sandra ha iscritto a giovanitalenti@radio24.it. Partiamo allora da qui. Succede lo stesso ai giovani stranieri che cercano di tornare in patria, Sandra? Ma direi che a livello europeo la situazione è abbastanza eterogenea, nel senso che paesi soprattutto del nord Europa, le persone per esempio hanno molte più opportunità nel loro paese. Prendiamo per esempio la Commissione Europea, dove ci sono difficoltà a raggiungere le quote per paesi come la Danimarca o la Svezia, dove le persone possono tranquillamente ritornare nel loro paese e avere opportunità di lavoro. La situazione è ben diversa per quello che riguarda il sud Europa e soprattutto l'Italia. E soprattutto l'Italia. Io, Sandra, devo fare una premessa, come dire, legale, che appunto arriva dalla tua azienda, la Panasonic. Le opinioni, i pareri e i giudizi che esprimerai in questa intervista riflettono unicamente il tuo punto di vista personale. La tua storia, Sandra, è per molti aspetti diversa da quelle di altri precedenti ospiti di Giovani Talenti. Tu in Italia ti sei infatti fermata agli studi alberghieri. Avevi però un sogno, andare in America e un lavoro come cameriera, dove ti trovi a servire un bel giorno a un tavolo di americani. E che cosa succede? Raccontaci. Succede che viene a mangiare una famiglia americana, io col mio inglese molto approssimativo, infatti non avevo mai raggiunto più del 5 alla scuola alberghiere, ho preso la loro ordinazione e ho iniziato alla meno peggio a chiacchierare con loro. Cercavo di spiegargli che andare in America era sempre stato il mio sogno fin da bambina e, per farla breve, a fine serata mi hanno offerto di andare a stare da loro. E qui arriva la sorpresa, perché a 19 anni ti trovi a sorvolare l'oceano con destinazione Los Angeles. Per fare cosa e soprattutto come è stato l'impatto con la realtà americana? Per fare la ragazza alla pari, anche se era una situazione abbastanza strana, perché io avevo 19 anni e la ragazza che dovevo seguire ne aveva 16, però comunque avevo bisogno di qualcuno per portarla a scuola, per fare la spesa e tutte queste cose. Niente, mi ritrovo in America e sicuramente le differenze con l'Italia sono enormi, soprattutto se paragoniamo Los Angeles e Cortina d'Ampezzo. Di quello che ricordo soprattutto dell'America, la qualità dei servizi decisamente ottima, la concorrenza fra le imprese, il che voleva dire costi più bassi per il consumatore, e sicuramente anche il rapporto che gli americani hanno con l'evasione fiscale, o forse dovremmo dire il rapporto che gli americani non hanno con l'evasione fiscale. Lo dici in un paese dove l'evasione è abbastanza alta. La cosa più incredibile che però ti capita quando arrivi lì è che scopri che, diciamo, questa famiglia ha ottimi contatti con Hollywood e tu a Hollywood fai degli incontri ravvicinati, no? Sì, appunto, sono arrivata in questa casa e non sapevo assolutamente chi fossero queste persone. All'epoca non c'era Google, mi avevano lasciato solo un numero di fax e un nome. E in effetti il mio primo giorno a Los Angeles mi hanno portata a una prima di un film, per cui tappeti rosso, fotografi, star hollywoodiane, e solo lì ho scoperto in effetti che questa famiglia era molto importante nel mondo del cinema. E chi hai incontrato? Tante persone. La prima sera Schwarzenegger, che mi guardava e mi diceva: ciao, come stai? Ciao, come stai? Da Schwarzenegger la prima sera, insomma, in California è sicuramente qualcosa che non capita tutti i giorni. Insomma, tu ti trovi a Los Angeles, a Hollywood, a vivere, come dire, un sogno che però ti riporta poi presto alla realtà, perché ti rendi conto che in qualche modo ti piace studiare. Allora decidi di completare negli Stati Uniti il tuo percorso di studi iscrivendoti al college. Scopri un sistema diverso, non fatto contro lo studente ma per lo studente. Spiegaci meglio. Dopo aver studiato negli Stati Uniti, non solo, devo dire che mi sono spesso soffermata a pensare al modello italiano di insegnamento, e devo dire che nel sistema italiano vengono messi in evidenza i difetti e le mancanze invece dei pregi e degli sforzi. Inoltre il sistema italiano è un sistema molto top down, il che vuol dire imposto dall'alto e con pochissimo spazio per iniziative e lavori di gruppo, mentre il sistema americano è molto diverso, è molto più fatto di lavori di gruppo ed è anche molto più internazionale, per cui si è esposti a persone di varie etnie, di varie lingue e con un background diverso. A quel punto chiudi il periodo alla pari presso la famiglia di adozione, torni a Los Angeles, concludi l'esperienza al college e poi fai ritorno in Europa, destinazione Gran Bretagna, dove a Bath ti iscrivi all'università, facoltà di sociologia. Toglici una curiosità: tutti questi spostamenti te li sei autofinanziati e come? In parte sì, in parte devo dire che ho avuto molto la fortuna che la mia famiglia mi ha aiutata, soprattutto in America perché è molto costoso, ma per il resto ho sempre lavorato in America come cameriera ma anche come insegnante di italiano al college, e poi una volta tornata in Europa ho lavorato tutte le mie estati, luglio, agosto, settembre, tutti i Natali, tutti l'ultimo dell'anno e sempre anche a Pasqua, oh, è l'unico modo. Facci capire allora, a chi dice come Barbara Palombelli, no, che voi giovani all'estero vi abbandonate a pigrizie catalane di Barcellona, folli notti berlinesi, Londra sempre swing, loft newyorkesi. Allora facci capire cosa significa vivere veramente all'estero, cosa significa sudarsi ogni metro percorso. Significa avere un grande spirito di sacrificio e significa voler raggiungere il proprio obiettivo sapendo che certe persone, come hai detto tu Sergio, lo fanno con una certa facilità mentre altri lo fanno con tanti sacrifici, però alla fine è una grande soddisfazione. È una grande soddisfazione soprattutto quando te la sei sudata. Qualcuno forse non se la suda, però sono convinto che siete in tanti che ve la siete sudata e ve la siete meritata. Nel corso del periodo a Bath trovi anche il tempo per un Erasmus a Bilbao. Dopo la laurea, non contenta, ti iscrivi a un master sull'Unione Europea. Perché? È stato un po' un caso, volevo studiare tutt'altro, ma alla fine bisogna sempre fare i conti con la realtà, cioè quella dei soldi, ed era quello che costava meno perché ho preso due borse di studio, per cui niente, ho fatto il master sull'Unione Europea, anche se in verità non mi interessava affatto. Concluso il quale però torni a Roma, forte di un college americano, di una laurea in Inghilterra, di un master anche questo in Inghilterra, e cosa trovi ad aspettarti? Qui la risposta direi che è molto semplice e diretta, trovo il nulla. Il nulla? Perché? Assolutamente nulla. Perché ho provato, sono andata a Roma da sola a cercare lavoro e non c'è veramente possibilità di trovare un impiego, soprattutto se purtroppo non si conosce nessuno, nel senso che... Ancora, veramente... non si conosce... Ma questo è un paese dove se non conosci nessuno dove vai? Ma probabilmente vai all'estero, come ho fatto io. Bella risposta. Ma siamo la regola o l'eccezione? Siamo la regola e l'eccezione, nel senso che i raccomandati ci sono ovunque, non sorprendiamoci, nel senso che non è un fenomeno solo italiano. Il problema è che in Italia il fenomeno è estremamente vasto, questo è quello che differenzia l'Italia da altri paesi. Se il figlio di o l'amico di deve stare lì, lì andrà, e forse sta al posto tuo che avresti i titoli per starci, corretto? Ma sicuramente in Italia ci sono un sacco di persone che sono nel posto giusto e che se lo sono guadagnato, però sicuramente ci sono anche molte persone che probabilmente forse hanno preso il mio posto di lavoro. Grazie per la sincerità. Alla fine fai domanda alla Commissione Europea, al secondo tentativo ti prendono e poi si dipana il tuo percorso professionale a Bruxelles, prima come stagista presso un'associazione di Information and Communication Technology, dove sarai poi assunta, e poi in Panasonic, dove ora ti occupi di Government Affairs, insomma, possiamo dire più, tradurre più prosaicamente, lobbying. E lì qualcuno ti calcolava, è molto più di striscio, Spiegaci dunque la differenza di approccio verso i profili qualificati come il tuo in Italia e a Bruxelles. La differenza è che a Bruxelles ho fatto domanda di lavoro rispondendo a un annuncio, per cui ci sono queste possibilità, e sono stata presa perché hanno saputo valorizzare il mio background accademico internazionale, sicuramente le esperienze che ho fatto e poi anche le conoscenze che ho acquisito, per cui viene messo veramente in evidenza quello che sei e quello che sai. Cosa significa fare la lobbista a Bruxelles? Il lobbista è una figura professionale che rappresenta, nel mio caso a livello di istituzioni europee, gli interessi di una categoria di persone, di un'industria, di un'azienda oppure anche di un'organizzazione non governativa. Il lobbista è una persona che aiuta i politici e i funzionari europei nel capire le diverse posizioni delle imprese su determinati dossier. Domanda di rito prima di cedere la linea al traffico. Sandra, come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? Cosa cambieresti e come? L'Italia dall'estero la vedo sicuramente un paese molto statico, dove ormai non si ha più la forza di indignarsi per nulla, tutto passa come normale, la normalità è diventata forse la normalità. È un paese che secondo me deve smettere di parlare dei problemi e cominciare a fare qualcosa per risolvere questi problemi. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Sandra Alverà, 35enne Government Affairs Manager per la multinazionale Panasonic a Bruxelles, dove si occupa di lobby. Sandra è arrivata nel cuore dell'Europa dopo un percorso a dir poco straordinario che l'ha portata prima negli Stati Uniti a soli 19 anni come ragazza alla pari, in California ha frequentato il college prima di tornare in Europa per studiare a Bath in Inghilterra sociologia e specializzarsi con un master sull'Unione Europea. Al termine di questo percorso all'estero, Sandra si è offerta al mercato del lavoro italiano ricevendo solo scarsa o nulla considerazione. Per questo si è rivolta all'Europa, dove in pochi anni ha già cambiato 3 posti di lavoro scalando le posizioni. E ci raggiunge ora in linea Franco Spicciariello, giovane socio fondatore di OpenGate Italia, azienda che opera nei settori della lobbying e della regolamentazione. Franco, tu a differenza di Sandra hai avviato una società in Italia. L'hai fatto dopo aver vissuto tu stesso in America. Perché questa scommessa e come sta andando? Fortunatamente sta andando bene e la scelta di aprire una società di questo genere in Italia è nata appunto dopo l'esperienza americana, dove avevo visto come la lobby fosse istituzionalizzata, regolamentata e fosse un mercato, almeno per l'Italia, dove c'erano enormi possibilità di crescere, basta vedere delle cifre. Il mercato della lobby negli Stati Uniti è intorno ai 3 miliardi di euro, in Italia è una torta al momento da 150 milioni soltanto, quindi possiamo immaginare i margini di crescita nonostante la differenza tra i due paesi. Ma è stato facile per te, giovane, outside, e reinserirsi in un contesto professionale come quello della lobbying in Italia? Facile no, non lo è assolutamente, ma devo dire sono stato facilitato proprio dalla mia esperienza all'estero, perché sono riuscito ad apportare un know-how che in Italia era praticamente sconosciuto quasi. Franco, la cosa che più colpisce quando si parla di lobbying in Italia è che la gente quasi ignora che possa essere considerata una categoria professionale. A Bruxelles invece, come a Washington, fare lobbying, l'hai detto tu stesso poco fa, è un lavoro istituzionalizzato. Tuttavia questa situazione nasconde, a mio parere, una profonda ipocrisia, perché da noi la lobbying in realtà esiste, è dietro le quinte, è nascosta, non avviene alla luce del sole. Condividi questa analisi e quali pericoli porta una situazione del genere rispetto a un'altra di trasparenza? Un gioco del genere facciamo tra noi lobbisti è quello di innanzitutto spiegare ai nostri genitori che lavoro facciamo, mentre invece a livello pubblico, come dicevi tu, l'ipocrisia è davvero notevole, perché la lobby esiste da sempre e spesso la lobby è addirittura direttamente nelle stanze della politica portata avanti dai nostri stessi rappresentanti. La lobby non è altro che un elemento del processo democratico e come tale andrebbe considerato e regolamentato, mentre invece purtroppo la situazione attuale di mancanza di regolamentazione riflette un'assenza di trasparenza, come in realtà in tanti altri settori di mercato istituzionali del nostro paese, purtroppo. Sì, paradossalmente in Italia è considerato negativo fare lobbying, no? Però la si fa, e la si fa male, perché la si fa senza rappresentare degli interessi in modo trasparente, diciamo. Assolutamente, in realtà appunto è bello che colpiscono e se la prendono con la lobby soggetti che sono essi stessi lobbisti. Ma in questo contesto quali possibilità ha un giovane italiano che voglia fare il lobbista nel bel paese sulla base solamente dei suoi titoli e delle qualifiche, senza però doversi compromettere in un ambiente così poco trasparente e aperto? Compromettersi è una questione personale e vale in qualsiasi altro settore, se non vuole compromettersi non lo farà, primo. Secondo, per quanto riguarda i titoli, aggiungere a parte una perfetta conoscenza dei procedimenti decisionali, primo, e secondo una grande passione per la politica. È necessario anche un carattere aperto alle relazioni, perché è vero che nella lobby non è necessario conoscere, però bisogna sapere cosa fare per poi conoscere e per comprendere chi decide cosa e chi chi influenza cosa. Sandra, è una domanda per Franco? I processi decisionali in Italia, come abbiamo detto, ci sono dei processi in atto, ma non sono trasparenti, per cui cosa si può fare affinché questi processi vengano rispettati? Ma purtroppo sì, ecco, c'è un'assenza di trasparenza anche nei processi decisionali in Italia. Per ovviare a questo, purtroppo, in assenza di una volontà da parte dei decisori stessi di rendere tutto il meccanismo più aperto alla pubblica opinione e al controllo anche da parte dei media, l'unica possibilità è studiare. Noi siamo la patria del diritto scritto, ma in realtà molte delle nostre attività istituzionali sono basate sulla prassi, purtroppo. Franco, ti giro un'altra domanda che Sandra ha posto a Giovani Talenti @radio24.it e lei ci ha scritto: se anche io posso non andar bene per l'Italia, quantomeno ci sono stranieri qualificati che trovano occasioni di lavoro nel bel paese, oppure la situazione è veramente tragica? È veramente tragica. Innanzitutto siamo un paese complicatissimo da comprendere per uno straniero, oltre al di là del problema della lingua, ma effettivamente nel settore dei rapporti con le istituzioni per uno straniero è un grosso problema, perché dal punto di vista culturale l'impatto è davvero notevole. Lo vedo nei rapporti con i nostri clienti, che siano questi americani, francesi, tedeschi o di qualsiasi altro paese. Effettivamente la comprensione del sistema non c'è, e quindi in questo può essere un vantaggio da una parte per chi fa lavoro come il mio, cioè consulente, lavoro molto con clienti stranieri, ma certamente per l'immagine dell'Italia e per il suo appeal a livello internazionale questo è un pessimo elemento. Franco, tu resterai in Italia? Spero di no. Avendo una figlia piccola non vedo molti spazi di crescita e di sviluppo per il paese in questo momento. È un peccato anche perché comunque tu ci stai provando. Assolutamente, sono tornato apposta perché ci credo ancora, ma vedo che la situazione invece di avere una china ascendente ha una china discendente ormai da oltre 10 anni. Grazie a Franco Spicciariello di OpenGate Italia. E domanda di rito per chiudere a Sandra Alverà: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita a un espatrio? Consiglio di pensarci bene, e se hanno lo spirito di adattamento e sacrificio, nonché la possibilità di partire, perché non tutti ce l'hanno, consiglio loro di farlo, perché di tornare a casa si fa sempre in tempo. E siamo giunti allo spazio dedicato alle associazioni e alle iniziative che si occupano di quella che possiamo definire come la nuova emigrazione. Oggi andiamo a visitare una regione poco conosciuta del nord della Spagna, la Galizia. Abbiamo scoperto che un gruppo di diverse centinaia di italiani si è riunito intorno a un sito web che propone, tra le varie cose, attività culturali. Erminio Capone, presidente di Italiani in Galizia. Italiani in Galizia è un progetto che è nato circa un anno e mezzo fa dall'idea di capire quante persone italiane erano interessate intorno al discorso di una regione che non è molto conosciuta in Spagna, come appunto la Galizia. Quindi ho cercato di capire quante persone, creando un gruppo sul social network di Facebook. Da lì abbiamo capito che in realtà sono tante persone che vogliono parlare di questa regione, tant'è vero che dopo pochi mesi si è creato un gruppo di circa 600 persone, oggi siamo arrivati a circa 1000. Da qui è nata l'idea, insieme ad altri ragazzi che vivono, italiani che vivono in particolar modo alla Corugna, di creare un blog che parlasse dell'Italia e degli italiani in Galizia. Che tipo di emigrazione è quella italiana in Galizia? Possiamo parlare soprattutto di giovani professionisti? Chi va in Galizia di solito sono persone che hanno studiato, hanno fatto degli studi nella regione in base al progetto Erasmus oppure altri progetti dell'Unione Europea come il progetto Leonardo. Lì hanno capito che è una regione dove la qualità di vita è assolutamente alta rispetto agli standard italiani, e quindi hanno deciso in un certo senso di spendere parte della loro vita, diciamo investire in questa regione. Ma ci sono anche altri professionisti che sono venuti per attività imprenditoriali. Hai parlato di qualità della vita, c'è soprattutto nel caso dei giovani anche una difficoltà di inserimento professionale in Italia dietro a questa scelta? Sicuramente il problema principale oggi in Italia, lo sappiamo, è l'inserimento nell'ambito professionale, nel mondo del lavoro. Certo, in Spagna in questo momento non è il momento più adatto, la crisi è in atto. Però la politica sociale qui in Spagna agevola molto le attività imprenditoriali giovanili. Quali sono le principali attività di italiani in Galizia? attività culturali, abbiamo fatto un ciclo di cinematografia italiana a marzo, ma anche attraverso il web, cercando di creare una rete di contatti anche tra altre associazioni italiane o comunque gruppi che si muovono in internet. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.italianiingalizia.it. E prima di chiudere questa puntata di Giovani Talenti, apriamo lo spazio Intern Active, una rubrica di confronto online per dare voce a chi di voi è espatriato oppure intende intervenire nelle discussioni che lanciamo settimanalmente. Oggi vi proponiamo l'estratto di una lettera pubblicata questa settimana sul blog ufficiale della trasmissione, blog al quale, lo ricordiamo, siete tutti, espatriati e non, invitati a contribuire con delle riflessioni. La lettera è quella di Federica, autodefinitasi stagista in fuga. Sono una dei tanti giovani under 40 alla ricerca invana di occasioni lavorative retribuite che permettano di crescere professionalmente oltre che personalmente, scrive Federica. Sono una giovane che all'apparire del vero pensa solo che l'Italia sia un paese per vecchi. Ho 26 anni e sono laureata, masterizzata e con parecchie esperienze lavorative. Troppi colloqui, troppe aspettative deluse, una collaborazione a titolo gratuito, un master in management culturale costosissimo, pagato con il prezzo dei sacrifici fatti da mamma e papà. E poi? Oggi mi chiedo, cosa deve fare un giovane per emergere nel mondo del lavoro? Ha un senso aver studiato, aver fatto degli investimenti per vivere quotidianamente in questo stato di angosciante precarietà? Mi trovo di fronte a un bivio: partire o restare? Penso che andrò altrove, scrive Federica. E questa settimana vi lanciamo una nuova provocazione: quanto il sistema lobbistico informale italiano impedisce ai giovani di talento di emergere nel bel paese? Condividete che la lobby in Italia funziona benissimo, ma funziona unicamente dietro le quinte? E perché non portare tutto alla luce del sole? Non ne guadagnerebbe la meritocrazia? Per dire la vostra potete scrivere a giovanitalenti@radio24.it oppure ci potete cercare su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina Fan Fuga dei Talenti. Esiste anche un gruppo sul portale professionale LinkedIn chiamato La Fuga dei Talenti, dove rilanciamo settimanalmente la discussione. E potete anche interagire sul blog aperto all'indirizzo radio24.ilsole24ore.com/blog/nava. Inviateci i vostri contributi, che pubblicheremo online. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto allora i vostri contributi online e a giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 15, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.